Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti per l'attenzione, grazie a Ezio Legradi per la regia, e l'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. Insonni, impazienti e distratti troveranno la replica mercoledì notte dopo l'ultima edizione delle notizie. Amanti della pagina scritta potranno abbeverarsi sul sito dove vengono regolarmente pubblicati i testi. Vediamo se una volta tanto riesco a dirlo giusto: www.radio.radiopopolare.it/trasmissioni/caccia. Mi sembra che ci siamo. Thank you.